Ad alta voce, Marco Cavalcoli legge Arancia Meccanica di Anthony Burgess, traduzione di Floriana Bossi. Allora che si fa, eh? Ricomincio da qui. E questa è la parte tipo lacrimosa e tragica della storia, fratelli miei e miei unici amici, che inizia nella Prista, prigione statale, cioè, numero 84F. Non avrete certo molta voglia di snicchiare tutta la sguanosa e orribile storia dello shock che mandò il mio papà a battere le granfie ammaccate e salsose contro l'ingiustizia di zio nel suo cielo e della mia mamma che allargava il truglio per fare nel suo dolore di madre per l'unico figlio e frutto del suo ventre, deprimendo tutti quanti cinebrivido. Poi ci fu il bigio magistrato, molto torvo nella lower court, che sprolò mottate durissime contro il vostro amico e umile narratore, dopo tutte le saloppe e sguanose calunnie vomitate da P.R. Deltoid e dai Cerini, che zio li stramaledica. Poi fui rimesso in una lurida cella insieme a lezzosi pervertiti e sgarroni. Poi ci fu il processo della Corte Suprema coi giudici e una giuria. Poi ci furono molte mottate davvero bruttissime, sprolate in modo solenne. Poi ci fu il colpevole. E la mia mamma giù a far bah, ah, ah, ah, quando dissero 14 anni, fratelli miei. Così adesso ero qua. 2 anni giusti da quando ero stato sbattuto a calci e inchiavistellato nella Prista 84F. Vestito all'estremo grigio della prigione, che era un abito a un pezzo di un colore sporco tipo sguana, e il numero cucito sulle parti tuberose, proprio sopra il vecchio tic-toc, eppure sulla schiena. Così che andassi o venissi, ero sempre il 6655321, e non più il vostro piccolo Soma Alex. Allora che si fa, eh? Non era mica stato edificante, ma neanche un po'. Rimanere in quel saloppo inferno tipo zoo umano per 2 anni, festato e preso a calci da guardiani bulli e brutali, e messo a vivere con lezzosi biechi criminali, alcuni dei quali erano autentici pervertiti, pronti a saltare con la bava alla bocca addosso a un giovane succulento malcico come il vostro cantastorie. E c'era anche da sgroppare a fabbricare scatole di fiammiferi in laboratorio. E poi si doveva fare il giro giro tondo nel cortile per il moto, e di sera a volte qualche bigio poldo, tipo Profio, ti faceva un lungo discorso sugli scarafaggi o sulla Via Lattea o sulle meraviglie del fiocco di neve. E quando sprolarono di questo mi feci una buona gufata, ricordandomi del festaggio e del puro vandalismo a quello sbietolone uscito dalla bibliopubblica in una notte d'inverno, quando i miei Soma non erano ancora traditori e io ero un martino libero e felice. Di quei Soma io avevo snicchiato una cosa sola, e fu un giorno che il mio P e la mia M vennero in visita e mi dissero che Giorgi era morto. Sì, morto, oh fratelli, morto come una sguana di cane per strada. Giorgi aveva guidato gli altri due dentro la casa di un martino molto ricco, e là avevano festato il proprietario e l'avevano preso a calci sul pavimento. E poi Giorgi s'era messo a sciancare i cuscini e le tende. E poi il vecchio Bamba aveva crocchiato dei preziosissimi ornamenti, tipo statue, eccetera. E questo ricco Martino, tutto pesto com'era, s'era imburianato secco e li aveva assaliti con una pesantissima sbarra di ferro. Col fatto che era tutto frappegli era venuta una forza tipo gigante, e Bamba e Peter erano saltati giù dalla finestra, ma Giorgi aveva inciampato nel tappeto e questa sbarra terrifica gli aveva crocchiato e spiaccicato il planetario, e quella fu la fine di Giorgi il traditore. Il bigio assassino se l'era cavata con la legittima difesa, come infatti era giusto e sacrosanto. E anche il fatto che Giorgi era morto ammazzato, sebbene fosse più di un anno da quando ero stato catturato dai rozzi, mi parve giusto e sacrosanto, tipo vendetta del destino. Allora che si fa, eh? Stavo nella cappella del braccio, dato che era domenica mattina, e il salmiere della prigione stava sprolando la parola del Signore. Suonare il bigio stereo era sgroppo mio, e mettevo su la musica solenne prima e dopo e a volte anche nel mezzo, quando si cantavano gli inni. Io stavo in fondo alla cappella del braccio, ce n'erano quattro in tutto nella pista 84F, dove c'erano i satelliti coi loro fucili e le loro sporche tamagne brutali in mascelle blu. E davanti a me c'erano i remigi che stavano seduti a snicchiare la mottata del Signore in quelle orribili palandre color sguana, e da loro si levava una specie di lurida sniffa, non tipo gente non lavata, ma una sniffa speciale, davvero puzzolente, fratelli miei, che ci avevano addosso soltanto i criminali, un tipo di sniffa polverosa, untuosa e irrimediabile. E pensavo che forse ce l'avevo addosso anch'io, essendo ormai diventato un vero remigio, anche se ero ancora tanto giovane. Così, fratelli miei, per me era molto importante uscire da quel lezzoso zoo appena possibile. E come lo chiarirete se andrete avanti a leggere? Ci riuscii piuttosto in fretta. «E allora che si fa, eh?» disse il salmiere del carcere per la terza turna. «Continueremo a andare dentro e fuori da posti di questo genere. Dovrei dire più dentro che fuori per la maggior parte di voi. O vogliamo ascoltare la parola divina e renderci conto del castigo che aspetta i peccatori impenitenti anche nell'altro mondo oltre che in questo? Siete un branco di maledetti idioti tutti quanti, a vendere la vostra progenitura per un piatto di porridge freddo. Il brivido del furto e della violenza, lo stimolo a una vita facile, valgono forse la pena se abbiamo la prova innegabile, sì, sì, la prova inconfutabile dell'esistenza dell'inferno? Io lo so, amici miei, io lo so. Sono stato informato per mezzo di visioni che esiste un luogo più buio di qualsiasi carcere e più caldo di qualsiasi fuoco umano, dove le anime dei peccatori impenitenti come voi, e non fate quelle facce, accidenti a voi, c'è poco da ridere, i peccatori impenitenti, dicevo, urlano per il dolore intollerabile ed eterno, soffocati dal puzzo, ingozzati di escrementi che bruciano, con la pelle che cade e marcisce e una palla di fuoco che gira senza fine dentro le loro viscere urlanti. A questo punto, fratelli, un remigio seduto da qualche parte nell'ultima fila sparò uno sguerzo di musica labiale. E subito i satelliti si misero al lavoro, buttandosi al lampo nel punto da dove credevano fosse venuto lo sguerzo e distribuendo festoni a dritta e a manca. Poi scelsero un povero remigio tutto tremante, uno molto magro e mignetto eppure bigio, e lo trascinarono fuori dalla fila, colui che scricciava «Non sono mica stato io, è stato lui!» Ma a quelli non gliene fregava niente. Fu festato cinebrivido e poi fu trascinato fuori dalla cappella mentre scricciava per difiato. «E ora», disse il salmiere del carcere, «ascoltate la parola del Signore». Poi prese il grosso libro e cominciò a sfogliare le pagine, e per sfogliarle si leccava ogni volta il dito, flap, flap. Era un tamagno bastardone corpulento e con una biffa molto rossa, ma mi aveva in gran simpatia, dato che ero tanto giovane e che ora cominciavo a interessarmi al grande libro. Era stato stabilito che leggere nel libro doveva far parte della mia futura educazione e anche mettere la musica sullo stereo della cappella mentre leggevo, fratelli miei. E questo era proprio cinebrivido. Mi ci chiudevano dentro, tipo, e mi lasciavano snicchiare musica sacra di J.S. Bach e G.F. Handel. E leggevo anche di questi bigi brutaloni che non facevano che festarsi l'un l'altro e glutare il loro vino ebreo e portarsi a letto le serve delle mogli, proprio cinebrivido. E questo mi teneva su, fratelli. L'ultima parte del libro invece non mi allappava per niente, dato che era tipo sermone e non sprolava più di zuffe del vecchio va e vieni. Ma un giorno il salmiere mi disse, strizzandomi tra le sue granfione, «Ah, 66553221, pensa alla sofferenza divina. Meditaci sopra, ragazzo mio». E mentre sprolava, aveva quella bella sniffa virile di whisky addosso, e poi andò nella sua piccola cantonetta a glutare ancora un po'. Così io lessi delle frustate della corona di spine, e poi la trucca della croce tutta quella sguana, e l'occhiai che era piuttosto interessante. Mentre allo stereo suonava brani dello splendido Bach, chiusi i fari, e l'occhiai me stesso che aiutavo, anzi che mi incaricavo del festaggio e dell'inchiodatura, tappato con una toga, com'era l'estremo grido della moda romana. E così stare nella prista 84F non era tutto tempo perso, e anche il governatore in persona si compiacque parecchio di sapere che avevo preso interesse nella religione, ed era lì che io riponevo le mie speranze. Quella domenica mattina il salmiere lesse dal libro di certi martini che snicchiavano la mottata e non avevano afferrato ad essere tipo una casa costruita sulla sabbia. E poi venne la pioggia, splash, e il vecchio boom boom crocchiò dal cielo e quella fu la fine del gabbione. Ma io pensavo che soltanto un poldo molto bamba poteva costruire la sua casa sulla sabbia e che doveva avere pure una bella banda di bastardi per vicini e per soma, se nessuno gli diceva quant'era bamba farsi quella costruzione. Poi il salmiere scricciò: «Bene, ora finiamo con l'inno numero 435 dell'innario dei prigionieri». Allora ci fu un gran patapum e un plop e un flap, flap, flap, mentre i remigi pigliavano e lasciavano cadere i loro lezzosi libri d'inni, e poi le casfogliavano le pagine, e nel frattempo quei feroci bulli di guardiani scricciavano: «Piantatela di chiacchierare, bastardi! Ti ho visto, 920537!» Naturalmente io avevo lo stereo pronto e misi su una semplice musica per organo con un crescendo. Allora i remigi cominciarono a cantare che facevano schifo. «Son come debole te, ma più forte mi farò, rimescolerò nel fondo e poi limpido uscirò». Ululavano e belavano queste stupide mottate mentre il salmiere li incitava tipo frusta con «più forte, accidenti a voi, più forte!» E i guardiani scricciavano: «Aspetta e vedrai, 774922, e ora te ne appioppo uno sulla capoccia, brutto schifoso!» Poi tutto finì, e il salmiere disse: «Che la Santa Trinità vi protegga e vi renda buoni! Amen!» E cominciò lo struscio verso l'uscita al suono di un bellissimo brano della Sinfonia numero 2 di Adrian Schweig-Selber, scelto dal vostro umile narratore. «Oh, fratelli!» «Che banda di disgraziati!» pensavo, locchiandoli dal mio posto vicino allo stereo, mentre uscivano trascinando i piedi e facendo ba e mu come tante bestie, e indirizzandomi gesti sconci con le dita lezzose perché gli sembrava che io fossi un privilegiato. Quando l'ultimo se ne ciondolò via con le granfie penzoloni tipo scimmia e l'unico guardiano rimasto l'ebbe messo fuori con un gran bel festone sul planetario, il salmiere mi si avvicinò sfumacchiando una cancerosa, ma vestito ancora con le sue bigie palandre da uomo di zio, tutte bianche e merlettate tipo mammola. Disse: «Come sempre, grazie, piccolo 6655321. Non hai nulla di nuovo da raccontarmi oggi?» Questo salmiere, lo capivo benissimo, voleva diventare un poldo importante nel mondo della religione carceraria, e aveva bisogno di un certificato cinebrivido dal governatore della prigione, e così ogni tanto andava a fargli qualche sprolatina sulle oscure macchinazioni dei remigi, e un mucchio di questa sguana la riceveva da me. Molte storie me le inventavo io, ma qualcuna era vera, come per esempio quella volta che a forza di toc toc e tac tac avevamo saputo attraverso le condutture dell'acqua che il grosso Harriman aveva deciso di battersela. Avrebbe aspettato l'ora della brodaglia, avrebbe festato il guardiano e sarebbe uscito con le sue palandre addosso. Un'altra volta doveva esserci un gran spargimento generale di quell'orribile boffa che ci davano giù in mensa e raccontai pure quello. Il salmiere passò le informazioni e fu complimentato dal governatore per il suo spirito civile e per il suo orecchio acuto. Così questa volta dissi, anche se non era vero: «Beh, signore, abbiamo saputo dalle condutture che è arrivata per via traversa una partita di cocaina e che il centro di distribuzione deve essere una certa cella del terzo ordine». Mi inventavo i particolari man mano che raccontavo, come facevo per la maggior parte delle mie storie, Ma il salmiere mi fu molto riconoscente e disse: «Bene, bene, bene. Passerò le informazioni a lui». Diceva sempre lui quando parlava del governatore. Allora io dissi: «Signore, ho fatto del mio meglio, no?» Usavo sempre la mia cortesissima ciangota da signore quando sprolavo coi pezzi grossi. «Io ci provo, signore, non è vero?» «Credo», disse il salmiere, «che si possa proprio dire di sì, 6655321. Ti sei reso utile e mi pare che tu abbia dimostrato un genuino desiderio di cambiare. Se continui così, finirai senza dubbio per ottenere il condono». «Ma, signore», dissi io, «cos'è questa cosa nuova di cui parlano? Questo nuovo trattamento che ti fa uscire di prigione in 4 e 4/8 e ti mette in condizioni di non tornarci mai più?» «Oh», disse lui circospetto, «dove l'hai sentito dire? Chi te l'ha detto?» «Queste cose circolano, signore», dissi. «Possono parlarne due guardiani, per esempio, e può esserci qualcuno che non può fare a meno di sentire quel che dicono. Oppure qualcuno raccoglie un pezzo di giornale nell'officina e ci legge sopra proprio quella cosa lì. E mi perdoni l'ardire, signore, ma perché non mi propone per questa faccenda?» Si locchiava che stava meditando mentre sfumacchiava a tutt'andare la sua cancerosa e forse si stava chiedendo se doveva o no dirmi quello che sapeva. Poi disse: «Immagino che tu ti riferisca alla tecnica Ludovico». Era ancora molto circospetto. «Non so come si chiami, signore», dissi. «So soltanto che ti fa uscire alla svelta e che non ti ci fa tornare mai più». «È così», disse, con le sopracciglia tutte un groviglio mentre si chinava a guardarmi. «È proprio così, 6655321. Naturalmente per ora è solo in fase sperimentale. È molto semplice ma molto drastica. Ma la stanno usando anche qui, non è vero?» dissi. «In quegli edifici nuovi vicino alla parete sud, signore. Abbiamo visto che li costruivano quando si usciva per l'aria. Non è stata ancora messa in pratica», disse. «Non in questa prigione, 6655321. Lui ha dei seri dubbi in proposito. E devo confessare che io condivido quei dubbi. Il quesito è se una tecnica del genere possa davvero rendere buoni. La bontà viene da dentro, 6655321. La bontà è qualcosa che si sceglie. Quando un uomo non può scegliere, cessa d'essere un uomo. E sarebbe andato avanti con queste sguanate ancora per un pezzo se non avessimo snicchiato il secondo scaglione di Remigi che clicchete clacchete venivano giù per le scale di ferro a pigliarsi la loro razione di religione. Lui disse: «Ne parleremo un'altra volta. Ora è meglio che suoni là solo». Così tornai accanto al bigio stereo e misi su il preludio e corale Wachet auf di J.S. Bach. E quei lezzosi saloppi bastardi di criminali e pervertiti entrarono tutti strasciconi come un branco di scimpanzé vicini al collasso, con i guardiani o satelliti che abbaiavano e li aizzavano. E poco dopo il salmiere della prigione gli domandava: «Allora che si fa, eh?» Ed è qui che siete entrati voi. Quel mattino ce ne furono 4 di queste porzioni di religione carceraria, ma il salmiere non mi disse più nulla di questa tecnica Ludovico, come diavolo si chiamava, fratelli. Quando ebbi finito il mio sgroppo con lo stereo, lui sprolò un paio di mottate di ringraziamento e io fui rispedito alla cella del 6° ordine, che sarebbe stata la mia lezzosissima e affollatissima casetta. Il satellite non era un martino tanto cattivo e quando aprì la porta non mi spedì dentro a calci e festoni, ma disse soltanto: «Rieccoti nella vecchia fogna, figliolo». Rieccomi con i miei soma nuovo tipo, tutti molto criminali, ma grazie a Zio non portati alle perversioni del corpo. C'era Zofar sulla sua cuccetta, un martino molto scuro e magro magro che sprolava all'infinito con la sua ciangotta tipo cancro e nessuno ormai si curava più di starlo a snicchiare. Quello che ora stava dicendo tutto per conto suo era: «E a quei tempi non potevi mai mettere le mani sopra un pogo. Minima idea di cosa fosse, fratelli. Manco a pagarlo 10 milioni di arcibaldi. Allora che faccio? Vado giù dal turco, vado, e dico che io ci ho questa rafa proprio quella mattina. E lui che fa? Parlava sempre con quell'antico gergo della malavita. E c'era anche Muro, che aveva un occhio solo, e si stava strappando pezzettini di unghie dei piedi tanto per festeggiare la domenica. E c'era anche il gran giudeo, un martino molto grasso e sudaticcio che stava sdraiato sulla sua cuccetta come morto. In più c'erano anche Joe John e il dottore. Joe John era molto gramo, molto furbo e molto forte, e si era specializzato in violenze carnali. E il dottore era uno che s'era vantato di guarire sifi e gono e scoli, ma iniettava solo acqua, e aveva anche fatto fuori 2 quaglie invece di liberarle del peso indesiderato, come aveva promesso. Erano proprio un bel branco di lezzoni, e starci insieme non mi garbava più di quanto garberebbe a voi, o fratelli, ma ormai era questione di poco. Ora, quello che vi voglio far sapere è che questa cella era stata costruita per 3, e invece noi ci stavamo dentro in 6, tutti stretti pigiati che non ci si rigirava. E in quei giorni tutte le prigioni erano in quelle condizioni, fratelli miei, ed era proprio una lezzosa vergogna che un disgraziato non avesse posto nemmeno per stirarsi. E voi non ci crederete, ma quella stessa domenica scaricarono un altro remigio nella nostra cella. Sì, avevamo appena ingoiato la nostra orribile boffa di lezzoso spezzatino e stavamo fumando una cancerosa tranquilla nelle nostre cuccette, quando ecco che sbattono dentro questo martino. Era un poldo bigio e ciarlone e cominciò subito a scricciar lamentele prima che noi avessimo il tempo di raccapezzarci. Cercava di scuotere le sbarre e scricciava: «Anch'io ho i miei sporchi diritti! Questa qui è già piena zeppa, è una schifosa soverchieria, ecco cos'è!» Ma uno dei satelliti tornò indietro a dire che doveva arrangiarsi e che se qualcuno voleva dividere con lui la sua cuccetta, bene, altrimenti doveva starsene sul pavimento. «E andrà sempre peggio invece che meglio», disse il guardiano. «Un bel mondo di luridi criminali quello che state cercando di costruire, tutti quanti!» Beh, fu proprio l'entrata di questo nuovo martino che aiutò la mia uscita dalla vecchia prista, perché era un tipo di remigio così maledettamente litigioso, con la mente così sporca e delle intenzioni così luride, che i guai scoppiarono quel giorno stesso. Era pure spocchioso e cominciò subito a far la biffa sprezzante e a metter su arie. Tirò fuori che lui era l'unico sgarrone veramente cinebrivido di tutto lo zoo e che aveva fatto questo e quest'altro e che aveva ammazzato 10 rozzi con un crocchio della granfia e questo genere di sguana. Ma nessuno faceva una piega, fratelli. E così lui se la prese con me e cercò di dirmi che dato che ero il più giovane dovevo essere io a ciocchire sul pavimento e non lui. Ma tutti gli altri presero le mie parti e scricciarono: «E lascialo in pace, sguanoso bugarone che non sei altro!» E allora lui cominciò la vecchia lagna che nessuno gli voleva bene e così via. Ma quella notte mi svegliai di soprassalto e mi trovai questo orribile remigio nella cuccetta, che era sotto le altre ed era pure molto piccola, e questo qui che mi stava sprolando mottate d'amore tipo sporco e pasticciava con le mani. Allora mi imburianai sul serio e cominciai a menar festoni, anche se non ci locchiavo per niente, dato che c'era solo una migna lucina rossa fuori sul ballatoio. Ma lo sapevo che era lui, quel lezzoso bastardo. E quando la cosa si fece più grossa e accesero le luci, locchiai la sua orribile biffa con la salsa che colava dal truglio dove l'avevo colpito. Naturalmente i miei compagni di cella si svegliarono e si unirono al festaggio menando alla cieca, finché lo sguerzo svegliò l'intero piano e tutti si misero a scricciare e a sbatacchiare i pentolini di latta sul muro, come se tutti i remigi di tutte le celle si fossero messi in mente che era arrivata l'ora dell'insurrezione, oh fratelli! Così si accesero tutte le luci e arrivarono i guardiani in maniche di camicia agitando dei gran bastoni, e noi potemmo locchiarci le biffe arrossate e le granfie tremanti, mentre scriccia e bestemmie si levavano da tutte le parti. Io feci subito le mie lagnanze, ma tutti i satelliti furono d'accordo nel dire che a cominciare doveva essere certo stato il vostro umile narratore, dato che io non avevo nemmeno un graffio, mentre quell'orrendo remigio colava salsa dal truglio a tutt'andare. Ma arrabbiai da scardinato. Disse che non avrei passato un'altra notte in quella cella se le autorità della prigione permettevano che degli orribili lezzoni di pervertiti cercassero di farmi il tronfo quando non ero in posizione di difendermi perché addormentato. Aspetta fino a domattina, mi dissero. È una stanza privata con bagno e televisione che Sua Eccellenza desidera? Benissimo, domattina provvederemo subito, ma per il momento, piccolo Soma, adagia pure il tuo lurido planetario su quella nannarola e guai a te se ti fai ancora sentire. Va bene, va bene? E se ne andarono, dopo aver ammonito severamente tutti. E poi le luci si spensero di nuovo, e allora dichiarai che sarei stato sveglio per il rimanente della notte e dissi a quest'orrendo sgarrone: va, pigliatela pure la mia cuccetta. A me non mi va più ora che me l'hai sporcata e sguanata con le tue orribili lezzose macerie. Ma gli altri ci si misero di mezzo. Il gran giudeo disse, ancora tutto sudato per via della sua partecipazione al piccolo festaggio: ma dai, fratello, non dargliela vinta a quello sgonfione. Tu sguanati il buso, Giuda, disse subito il nuovo, intendendo dirgli di star zitto, ma era molto offensivo. Allora il gran giudeo fece per menargli un festone, ma il dottore disse: andiamo, signori, non mi sembra proprio il caso di metterci nei guai per questo, con la sua ciangotta di gran classe. Ma questo sgarrone nuovo sembrava che se le cercasse. Si locchiava benissimo che credeva d'essere un gran poldo e che gli pareva al di sotto della sua dignità di dover dividere la cella con altri sei e di dover essere lui a dormire sul pavimento. Così, con quella sua biffa beffarda, cercò di fare il verso al dottore, dicendo: «Oh, davvero? Non le sembra proprio il caso, signor Arciballe?» Allora John, molto gramo e molto furbo e molto forte, disse: «Se non possiamo dormire, dedichiamoci almeno all'educazione. Il nostro nuovo amico qui ha bisogno di imparare qualcosa». Sebbene si fosse specializzato in violenze carnali, aveva un bel modo di sprolare, tutto tranquillo e precisino. Così il nuovo Remigio ghignò e frin frin e frun frun, bruto da quattro soldi. Fu così che cominciò, ma in una strana maniera silenziosa, senza che nessuno alzasse troppo la ciangotta. I'm singing in the rain, just singing in the rain. What a glorious feeling, I'm happy again. I'm laughing at clouds so dark up above. The sun's in my heart and I'm ready for love. Let the stormy clouds chase everyone from the place. Come on with the rain, I've a smile on my face. I'll walk down the lane with a happy refrain, just singing, singing in the rain. Dancing in the rain, yeah, yeah, yeah, yeah. I'm happy again. I'm singing and dancing in. Thank you.